10 al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Chilometri al giorno, polvere e sole, andate e ritorno, 20 chilometri al giorno, per sentirmi dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. 20 chilometri al giorno, breve l'andata, lungo il ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, un mazzo di fiori di prato, ma tutto è andato sprecato. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che a te. La la la.